Turn up the sound system to the song. It's an international love song. Moving on and on. Holding on and on. La prima volta che ti ho vista l'ho capito presto, che saremmo scappati insieme da tutto questo. Quando parti a volte è duro, può mancare il cielo, ma solo viaggiando si può crescere davvero. Leggia mia, picchia tutto e mi ciccia la borsa. Portami tutti alla larga, mo' questa realtà. E ricorda che ogni cosa che trascuri no, non ritornerà, forse non ritornerà. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. E se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è? Portami con te in questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te, portami con te, ancora un po' più in là. Baby girl, take a bag of clothes, leave it all behind. So please don't tell nobody, it's a no return flight. Take a step to this brand new life. We have a secret to hide, yeah. We coulda live all alone on this Caribbean island for so long and on and stay away from the chaos, we don't break the silence. Hold on. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. Se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è? Portami con te in questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te, portami con te, ancora un po' più in là. Ti porterò via dove il sole non muore, dove non c'è niente da perdere. Se non troveremo più nuove parole, ci basta uno sguardo per credere. Se niente dura per sempre, corri che il tempo non ci aspetterà. Non sarai mai così distante, un filo di voce ti raggiungerà. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. Se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è? Questo viaggio senza meta né destinazione, portami con te.